YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Daniele, sono stanca, è Ciao. La terza ora del Sabato del Villaggio, buonasera. Quella più bella, quella più bella. Sì, dici tu quella a tutti. Quella più bella, quella più bella. Sono un po' stanca perché sento la primavera che arriva, maledetta. La primavera a gennaio, sì, sì, senti sì, la primavera. No, oggi, oggi c'era una giornata stupenda, sole, peraltro. Sì. Ma era fuori, sono chiusa qua dentro. No, beh, ma anch'io lavoro oggi, qui si lavora, mica si lavora. Si produce. Ma invece le canzoni di Sanremo? No, ne abbiamo come parlato, sono? Lo so, hai per quello sentito, che... no, hai sentito, abbiamo parlato. Guarda, a me è piaciuta tanto quella di Malika Ayane. Sì. Poi te l'ho detto, mi è piaciuta quella di Masini, ti ho mandato il testo perché volevo fare una roba romantica. Mi hai mandato il testo? Dove? Sì, ti ho mandato un po' di righe del testo. Tu ah, pensavo fosse, no, pensavo che fosse un tuo messaggio. No, ma... ti ho mandato, no, ti ho mandato per farla romantica. Ma non è incostituzionale tu... che voi li avete già sentite, noi comuni mortali no. No, ci no. Si chiude a porte chiuse per ascoltarle una volta. Sola. Mm-hmm. Perché così non è che le senti per la prima volta a Sanremo. Ti prepari sì, un po'. Sì, perché poi tu devi organizzare la giuria di qualità anche quest'anno. No, non la giuria di qualità. Come si noi facciamo quella? Lo spoglio del premio della critica. È diverso. Ma guarda, sempre a prendermi in giro. L'anno scorso chi l'avete dato? Non mi ricordo più. Senti, Cristiano De André, parliamo del fenomeno della settimana. Non abbiamo detto tempo. Niente, né il tuo inizio, l'imperdibile, no, il perdibilissimo. Ma non, non mi va più di dire il perdibile, l'imperdibilissimo. Almeno basta. I nostri account, sì, account di Bellasio, et Marta Cagnola, cancelletto Radio Tube. Di anche quello del Sabato del Villaggio. Il ISDV. L'ho detto giusto. L'hai imparato. Assomiglia a quello di un partito politico. E quindi parliamo di politica. Sì, parliamo il candidato del prossimo più presidente forte della Repubblica. Sappiamo già chi è. Oh, certo. Il vincitore morale. Allora, sai che io all'inizio tifavo per Gianni Morandi. Sì. Però Gianni Morandi. E anche lì c'è un movimento su Facebook sì. Che lo candida. Però lui questa settimana ha postato una sua. Sì, ha detto che secondo lui è il momento per una donna. Però secondo me non è tanto il momento di Raffaella Carrà, ne parleremo tra poco. Anche lei si è sfilata dalla corsa presidenziale. Insomma, ad altro a cui pensare. Però c'è qualcuno che va molto molto molto molto no, forte. Quello l'ho seguito anch'io perché niente. Perché è diventato un meme, lo dico all'italiana. Cos'è? Meme. Cos'è un meme? Cos'è? Beh, è un fenomeno di internet che comincia a diffondersi in maniera, lo dico la parolaccissima, virale. Sì. Così per imitazione, diventa celebre, cioè in realtà non è solo un fenomeno di internet, in generale tutto ciò succede dentro la parola meme sta. Sì, ma è perché è una parola inglese, è una cosa complessa, però ormai si dice, no? Anche in italiano, sì. Un meme è una cosa che comincia a diffondersi, sì. Magari con delle foto spiritose, con dei video parodie. Spiritosi, e lui è il protagonista sì, assoluto lui, in questo lui, periodo. Diciamolo, Giancarlo Magalli. Che chi di noi non ha sognato Magalli Presidente della Repubblica? Ah, ma a me piace Magalli, perché guarda, è rassicurante. Sì. Direi proprio di sì. Poi può concentrare su di sé tanti sentimenti positivi di rinascita, sì. Di no, Magalli mi piace come punto e di riferimento. E com'è nata questa candidatura? Io ho dalle consultazioni di Renzi, sì. No. No, quelle no. Che iniziano. Allora, intanto proprio per un fatto di cronaca dobbiamo dire che è nato un po' dal fatto che sul sito del Fatto Quotidiano hanno fatto queste quirinarie con un po' di nomi e lui ha stravinto. Infatti oggi il Fatto Quotidiano ha pensato di fare un Antonio Padellaro ha dovuto spiegare perché Magalli perché secondo me adesso io non voglio essere cattiva però gli è un po' sfuggita di mano sta cosa a Magalli o al Fatto? È un po' al Fatto però perché Magalli? Perché non Pippo Baudo? Perché appunto esatto, non Gianni Jerry Morandi? Scotti non lo so perché da proprio Magalli? Da dove è nato il fenomeno Magalli? Ho fatto chi lo sa? Sicuramente ultimamente a rendere particolarmente popolare Gianfranco Magalli sono stati i nostri amici The Pills. Ah, quindi nasce dalla rete questa candidatura, sì, dal questa popolo della rete. Sì, The Pills, abbiamo parlato di loro la scorsa settimana con zio Gianni, sì. Che è la striscia che va su Rai 2, io continuo a guardarla. Infatti mi spiace quando fanno il calcio la sera perché non c'è zio Gianni, ormai mi hai attaccato questa passione. I The Pills hanno fatto questo video in cui uno di loro gioca ai videogiochi, sì, e non riconosce mai l'altro, che ha delle frasi sue tipiche. Ma è quello della parodia del film di Face Off. Ecco, e hanno preso Giancarlo Magalli, che si è prestato a fare questa cosa straordinaria. Ascoltiamo un pezzettino di questo video dei doppie su cosa ha combinato Magalli. Vediamola, vediamo. Che cazzo fai? Spari contro. Ah, sei te quello? So io, sì. Scusa, zio, non ti riconosco. Dai. Come quella volta che hai dubitato dell'identità di Luigi. Sbarra! Devi sparare a lui, io sono Luigi. Io sono Luigi, che cretino. Non lo vedrebbe chiunque che Luigi sono io, no? Sparare a lui, io sono il vero Luigi. Sono io, Luigi. Andiamo al circolo. Signor Magalli, per favore, basta un... Luca, non fare il cretino, sono io Luigi. Sono io il vero Luigi. Sono Luigi. Fa la canna, sì. E vai. Ma questa è la mia battuta. Lo vedi che sta cercando di prendere la mia identità? Ma è lui quello finto. Mi somiglia, quindi è finto. Ha fatto pure i risvoltini ai pantaloni, ma signor Magalli. Se... Sono io Luigi, lo vedi che sono io Luigi. Non devi sparare a me, devi sparare a lui. Io sono il vero Luigi. Chi lo conosce questo qua? Dimmi qualche cosa che sa solo Luigi. Vai la prova. Turbo Fregna. Allora, signor Magalli, per favore. Cioè, Turbo Fregna. Certe cose presente alla Repubblica non ma si no, possono accostare. Ma no, sì. Ma no, perché lui si è prestato. Ma era lui, a fare lui poi, tra l'altro. Sì, ma è bravissimo, peraltro, in questo video. Mi fa troppo ridere. Beh, ma certo, è bravo. Scusami, ma saranno stati i doppiosi a lanciare Magalli? No, perché nei commenti retorica del video c'è questo Dario Moccia Channel, che è una star di questi YouTubers di cui parliamo spesso, YouTuber, che dice no, no, sono l'ho io, lanciato no, io con questo video. Ah, ce l'ha gara ad aver lanciato la candidatura. Sì, per me è Padellaro che vince. Tutorial per fare delle manipolazioni delle immagini in rete. Ecco. Vediamo. Qua. Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo tutorial. Mi scuso con voi se sono stato assente con i miei favolosi tutorial, ma purtroppo avevo una verifica di geografia. Ci sono varie immagini, ma quella che ci interessa adesso è Giancarlo trattino basso Magalli. Andiamo ad inserirla. Ecco qua Magalli. Come vedete ha un tono molto così sciupato, non è molto appetibile, dobbiamo renderlo un po' più mascolino. Andiamo su incolla, incolla da, e andremo a prendere un arto robotico. Come vedete le cose stanno iniziando a cambiare, il nostro Magalli sta diventando sempre più mascolino. Vabbè, con l'arto robotico. Ma però, sarà scusa, stato allora questo Dario Moccia a però lanciare? Pensaci un attimo. Cioè, un partito guidato da Beppe Grillo, sì, un altro da Silvio Berlusconi. Sì, ci sta. Matteo Renzi sta, è andato alla ruota della fortuna, ci giusto? Sta. Matteo Salvini dov'è che era andato? A un altro a pranzo. Beh, servito? No, a doppio slalom. Ah, a doppio slalom. Qualcuno è andato anche al pranzo servito? Ma no, sì, è vero. A sto vero, punto Magalli è perfetto. Cioè, ma no, ma è perfetto, è più perfetto. Più che un assetto costituzionale è un palinsesto. Ma io lo trovo... Ma dopo tutto gli Stati Uniti hanno avuto Ronald Reagan come Presidente della Repubblica, sempre sì, molto prima di noi. Beh, va benissimo. Però quello era più cinema, perché sì, erano sì, altri quello, tempi. Quello era più cinema. Comunque, sotto sì, la pagina di questo Dario Moccia Channel, sì, che appunto io non conosco perché sono troppo anziana, robe per giovanissimi, il forum Games Radar ha detto non è vero, noi abbiamo fatto i fotomontaggi con Giancarlo Magalli nel 2008. Ah, c'è quindi sempre qualcuno c'è sempre... che è più magallico di sì, te, sì, che è arrivato sì, prima. E c'è anche la pagina Magallica su Facebook, certo, ce ne sono tantissime di pagine, tantissime, e hanno organizzato un flash mob al Quirinale, davanti ma al Quirinale. Adesso noi 29. Dedichiamo tutta la puntata, no, Magalli? No, no, o... no, era solo perché il fenomeno e perché a è me virale, piace tanto Giancarlo Magalli, però adesso sono 17:15, 42 secondi. Assolutamente traffico il del traffico, villaggio. Il traffico sì, del villaggio, come dici tu, a tra pochissimo. Rieccoci insieme, Daniele, dopo questa pagina dedicata a Magalli. Se la merita perché è il personaggio sì, del momento. Sì, la prima pagina dedicata sì, la prima a pagina. Magalli. Sai che alla Zanzara ha detto che un giornalista, e non so se è vero, ma che un giornalista Il Fatto l'ha chiamato per dirgli ritirati dalle Quirinali. No, e lui, sì, ritira detto, la tua candidatura. Sì, sì, l'ha detto a Giuseppe, ma lui dice, ma io a cosa mi ritiro che non mi sono mai candidato? Vabbè, succede di beh, tutto. Quindi in fondo si sta un po' candidando, bellissimo. Ma pensa che cosa straordinaria. Abbiamo pensa parlato a discorsi di... fine anno, però comunque sì, andiamo avanti. Abbiamo parlato di politica italiana, adesso voltiamo pagina, come andiamo... dicono i bravi conduttori. Sì, andiamo all'estero, perché... Sì. Noi vogliamo un presidente che televisivo. Sì, televisivo, che possa coinvolgere, che possa dominare i media, mm-hmm, ma chi? più di Barack Obama. Sì. Barack Obama in questi giorni ha tenuto un discorso molto importante, cioè, che discorso io sullo sbaglio stato sempre dell'Unione. Invece di chiamarlo State of the Union lo chiamo State of the Nation, come una vecchia State canzone of the Nation. Ma è SOTU. Che è uno degli hashtag che mi piacciono di più dopo FLOTUS, che è quello di Michelle, First Lady of the United States. Io avrei un brevissimo estratto da questo SOTU che fa capire assolutamente questo State of the Nation di Barack Obama. Io vorrei of entrare un po', se vedi te lo dico State of the Nation, State of the Union di Barack Obama, per entrare un po' in questa atmosfera. Hai preso americana. La parte quella ufficiale o quella che ha poi l'intervista su YouTube? No, intanto ho preso la parte ufficiale. Okay. Intanto ho preso la parte ufficiale, entriamo in atmosfera. Eccola. My only agenda. I know because I won both of them. L'ho tagliato un po' male sto file, Daniele, perché dice la mia agenda non è quella di vincere un'altra, no, anche perché le ho vinte tutte e due, e quindi sì, e poi no, si sente che alla fine ride il pubblico, perché lui fa una di quelle faccette alla Obama, che figo, fa quell'occhiolino un po', sì, perché tanto adesso vanesco. È come fosse in vacanza, perché avendo il congresso a maggioranza dall'altra parte può dire qualunque cosa, può tanto promettere perdere, qualunque non può cosa, perché non si può più candidare, non può più perdere, non può più ottenere quello che vuole ottenere, perché tanto il congresso decide lui, quindi può dire qualunque cosa. Conquisteremo la luna, faccio un progetto dove tutti diventano ricchi da poveri che erano, presenta bello, è stupendo, bello, sono, bello, in realtà bello. Essere un'anatra zoppa può essere anche un vantaggio. A chi chiediamo un'analisi più seria di quello che io ho fatto? Se lo chiedi a me, che io proprio Avrei fatto la tesi sulle presidenziali americane. Ecco, questo è un meme, il meme di Daniele Bellase, la tesi di laurea di Marta Cagnola. Perché no, un'esperta seria, dai, un'esperta seria, ecco. Chiamiamo un'esperta seria, anzi chiamiamo qua. Chiamiamola qua in diretta. Buonasera a Paola Peduzzi. Buonasera. Buonasera. Come il sole, Paola Peduzzi, è giornalista del Foglio e una persona che sicuramente ci può dare un punto di vista un po' più serio del nostro sugli esteri. Intanto questa considerazione di Daniele esteri del Foglio. Questa considerazione di Daniele sul quanto è comodo adesso per Obama, no? Può dire qualunque cosa. Sì, infatti ha detto qualunque cosa in questo discorso, e che è stato uno show meraviglioso, nel senso che quest'anno lo stato del il discorso sullo stato dell'Unione, che è una cosa prevista dalla Costituzione americana, quindi è un momento molto serio, è diventato lo show migliore che ha fatto Obama da ultimo, non dal punto di vista dei telespettatori, nel senso che è stato il meno visto dei ma suoi. Dai. Sì, ha perso 20 milioni di telespettatori dal 2009. 20 milioni? 20 milioni. In compenso su Twitter, sparo, mi sembra di ricordare, 2.600.000 Twitter, con un picco mostruoso sul pezzetto che avete fatto sentire voi, perché lì è stato proprio il momento che il New York Times ha definito spavaldo, che secondo me è stato un bullo quasi, sì. Cioè aveva il tono da bullo, da uno che se lo può permettere, per l'appunto. E poi anche la costruzione di questo Stato dell'Unione è stata diversa da tutti gli anni, perché di solito non si sa mai che cosa dirà, e si arriva fino all'ultimo, si può scrivere qualsiasi cosa nei giorni precedenti perché ogni leak vale. E invece quest'anno lo Stato dell'Unione è sempre di martedì, già la domenica si sapeva tutto. E allora, come mai? C'era colpa della rete, sempre colpa L'hanno fatto apposta. L'hanno fatto apposta. L'album di Madonna che hanno fatto apposta. Come quando ci sono i prodotti di quella marca lì della mela che escono le foto qualche giorno prima. La marca prima. Della mela è come dire la famosa bibita con le bollicine. Vabbè, capito, però almeno deontologicamente perfetta come cosa. Ragione. No, però non è mica stato hackerato, hanno deciso. Sì, perché ha costruito l'onda. Ha costruito tutto. E poi tutti si chiedevano adesso Perché lo dobbiamo guardare? E i suoi collaboratori davano anche delle risposte un po' offensive, perché dicevano: noi facciamo sapere tutto prima, così la gente può seguire meglio il discorso. Che voglio dire, siamo mica deficienti. Era per aiutarci a capire, esatto. Era una specie di Baedeker. Siamo mica deficienti, per cui lo possiamo seguire in diretta. In realtà l'hanno fatto perché appunto stavano preparando questo show che è diventato, infatti, che ci ricordiamo, l'unica frase che ha detto che non era stata già detta prima, e anche il discorso che di solito arriva soltanto alla stampa qualche ora prima, quest'anno ce l'avevano tutti, l'hanno fatto apposta. Quindi è stato proprio per poi godersi lo spettacolo. Le faccette. Le lo faccette spettacolo, da il vestito di Michelle. Ah, Michael ecco, Kors, c'è un dibattito. Ecco, perché Marta Cagnola ha già ordinato tutto. Ma perché siccome lui mi ha mandato subito una cosa, parliamo di Obama, io sono sul pezzo perché avevo già fatto shopping Michael Kors. E io ho risposto, esatto. Non ho capito. Ma come non ho capito? No, ho capito. Aveva lo stesso tailleur di Alicia Florrick, che è la protagonista. Ecco. Poi, di Good Wife. Stupendo, adesso ho realizzato tutto. E dicono $1,300, insomma, che è un bel tagliorino di un certo costava spessore. Anche tanto, vabbè, che poi lei l'ha tenuto chiuso, sì. Mentre Alicia, vabbè, vi lascio discutete per ore. Però allora, scusa, c'era molta rete, esatto, lo citavi prima perché lui ha fatto State of the Union, State of YouTube perché ha cioè si è fatto ospitare da Bethany Mota, sì. Glozell Green e Hank Green, che sono tre nomi che forse in Italia dicono poco, ma sono tre nomi di tre star della rete, di tre star di YouTube, che sono particolarmente influenti, dai quali lui si è fatto intervistare. In una scenografia terribile. Sì, no, possiamo dire. Lui si alzava, sembrava una trasmissione di Magalli, quella in piazza, non so. Dai, il presidente. No, è il presidente, però era ridicolo. Un po' di rispetto per l'istituzione. Cioè lui si alzava, passava da una sedia all'altra per fare le domande con i libri finti dietro. Ma non so, prendevano due mobili all'IKEA da quell'azienda svedese famosa. Ma ascoltiamo un pezzettino, ecco, la mia preferita YouTube. Dei tre è Glozell Green, sì. Perché c'ha il rossetto verde, perché si chiama Green e quindi c'ha il rossetto Siamo verde lo sbalto. Proprio sì, al top, sì, come dice Cruciani. Cose interessanti e importanti. Un pezzettino di Glozell e il presidente Barack Obama. Hey, Glozell. Hello. How are you? I'm good. Good to see you. Yay. How are you doing? Excellent. That's thank a nice you. Painting. Thank you. Did you do that yourself? My Was husband that a self did. Your husband did? Yes. Oh, see there? He loves you, I can tell. Thank you. That's great. He's quite an artist. Yes. Right. Thank you very much. All right. Let's get started. Cioè, così, no? È il tone è questo. Ah, yeah, come stai? Ma farà l'attore dopo? Beh. Dopo cosa può fare? Lo sta già facendo. Lo sta già facendo. No, perché lui è anche molto giovane. Già lo dicevamo di Clinton, dopo che farà più o meno ce l'avrà. È diventato bianco subito, perché prima era bello, moro. Sempre siamo su questi argomenti. Sì, oggi sei pop in un modo spintissimo. Mamma mia, veramente. La terza ora proprio mollo gli ormeggi. Ma questa cosa qua, questo esperimento di YouTube ha fatto arrabbiare tutti. Ah, non ha funzionato manco questo. No, ha funzionato benissimo, però anche lì tutti si aspettavano. È stata la prima intervista dopo il grande discorso e l'ha dato a tre star di YouTube, quindi erano tutti indignati. Infatti quest'anno è stato celebrato la morte di tutto in giro di due giorni, la morte dello stato del discorso sullo Stato dell'Unione, la morte della page 3 dei giornali britannici, tutte le istituzioni a cui siamo affezionati. Sì, la page 3, è ritornata. Potresti anche spiegarcela però, Allora, è stato uno scherzo meraviglioso, ci abbiamo creduto tutti. Sì, ci abbiamo creduto tutti. Sì, ma spieghiamo tutti. Che cos'è. Ditelo, qualcuno dei due lo deve dire. No, fa finta di non saperlo. Cosa succedeva sulla pagina? Chi appariva? Cosa si vedeva? Cosa si vedeva? Vabbè, era la pagina sconcia. Tette. 53 anni comunque a Barack Obama. 53 anni. Quindi finisce attorno ai 55. Esatto. Quindi può fare una filmografia. Magari fa l'inverso di Reagan. Esatto, stavamo parlando di tette. Ecco, sì. Ci richiami all'ordine, vedo. All'ordine pop della giornata. Stavamo parlando di tette. Sì, quindi? E quindi abbiamo sembrava pensato, morto. Sì, è stato uno scherzo virale. No, cioè? Ma che virale, non c'è stata. Allora, la pagina 3 è sul Sun, tabloid più letto in Inghilterra, dove ci sono le tette. Sì, di solito. Donne nude. Sì. Signorine che da lo sempre. Fa anche il foglio peraltro, è nella pagina del dello calcio. Sport. Sì. E certo, perché il nostro... Tu sei favorevole? Alle tette? Beh, certo. Ah, bene. No, mi piace, perché a volte si dice, no, queste scelte troppo ardite, le cose. Ma no, ma poi... Anche sulla pagina 3 dei tabloid, cioè, secondo te ha senso tenere? Beh, ma quello c'è da 50 anni, cioè... ho capito cosa c'entra. Vabbè, è un'istituzione, come lo Stato dell'Unione, non è che la discuti, come è lo così. Stato dell'Unione, ho capito. Non si discutono. La tieni così, è un'istituzione e niente, per qualche giorno non ci sono state. Sul sito sì... E sulla cartaceo no, panico. Quindi, click, sì, però, panico, detto... gridavano alla Corea del Nord, la censura, gli inglesi sono diventati pazzi, pazzi. E poi, dopo che abbiamo celebrato il funerale, niente, sono ricomparse le tette. Quindi non era una scelta editoriale vera. Se ne parla, perché c'è molta polemica, perché ci sono molte femministe che fanno dei picchetti, le magliette con scritto non vogliamo più, la page 3, cioè c'è un movimento, perché insomma un sacco di gente non lo considera assolutamente una cosa seria e neanche una cosa molto così etica. E allora si è parlato che Murdoch volesse toglierla. Infatti il giorno in cui non sono uscite, la sera prima, quando si diceva domani non ci saranno le tette, domani non ci saranno le tette, Murdoch ha fatto un tweet sulle tasse di Obama, vuole mettere le tasse ai ricchi. Quindi lui ha fatto un tweet polemico su questo e tutti gli rispondevano: ma hai tolto le tette? Ma hai tolto le tette? Cioè, le domande che contano, esatto, sui social network, certo. Sempre si va al dunque. Io farei solo un commento su questa cosa: ci hai creduto faccia di velluto, perché dopo due giorni hanno c'erano di nuovo, c'erano le tette. Esatto. E dopo aver parlato di tette, direi che è il momento di prendere un po' di fiato, perché questa volta c'è una pausa. Sì, breve. C'è la pausa e poi ci ritroviamo tra poco ancora con Paola Peduzzi. La teniamo qui sotto chiave. Chiocciola, no, Paola, ma qualcosa del foglio è successo poi questa settimana. Ma sai che mi sa di sì? Poi le ma chiediamo. In televisione poi le anche. Poi le chiediamo. Sì, secondo me c'era, ne parliamo tra poco. Un signore con la barba. Sì, ce l'ha presente? Ne parliamo tra poco. Mi stavo distraendo guardando Twitter, chiocciola Marta Cagnola, chiocciola Di Bellasio, hashtag RadioTube, hashtag ISDV, ma anche l'account di Paola Peduzzi. Non l'abbiamo noi. Ancora detto. Sì, l'abbiamo detto, chiocciola Paola Peduzzi. E come me, nome e cognome? E nella bio chissà cosa c'è scritto. Allora, aspetta che ce l'ho qua davanti, ce l'ho qua. Comunque, davanti, adesso lo guardiamo. Io, mentre tu cerchi la bio, questa settimana ero lì che guardavo la partita dell'Inter. Sì. Con la Sampdoria abbiamo vinto, siamo passati, è stato molto bello. Sì. A un certo punto, come sempre, mentre uno guarda la partita, va un po' su Twitter. Sì. E esce un tweet che dice: Giuliano Ferrara lascia il foglio. Ora, perché come non sai, stavi guardando le invasioni barbariche? No, peraltro insieme a un po' di altre persone. Ma comunque, bando alle cattiverie. Leggo questa cosa e dico: Giuliano Ferrara lascia il foglio. Come sai, c'ho qualche legame del passato a questo giornale. E qui, subito dopo, però lo lascia a Claudio Cerasa. E lì ti sei commosso fraternamente. Mi sono un po' commosso perché bromance, come però, si dice in però inglese. L'esperimento delle nuove tecnologie è tale per cui dopo 10 minuti sono riuscito però a vedere il video dell'intervista. Mostriamola alla radio, soprattutto Giuliano a Paola Peduzzi, che è qua, che trema, che ci dovrà raccontare tutte le novità, la linea editoriale, tutto quello che succede. Povera Paola. Peraltro lei sta a Milano, poverina. L'abbiamo messa in mezzo. Allora, lei sta a Milano. E la sua bio di Twitter è giornalista del Foglio, redazione Esteri, punto. Ma soprattutto ha come immagine di copertina una bella campagna. Come te, la campagna? Che campagna è? Sarda. Perché c'è una pecora nera lì in mezzo che è coperta dalla bio. Sì, la pecora nera. Ritorniamo a Giuliano Ferrara, alle invasioni barbariche. Ecco cosa ha detto l'altra sera a Daria Bignardi. Ho un'ultima domanda. Nelle ultime righe di questo delizioso Royal Baby tu scrivi: Renzi ha ragione, largo ai giovani, bando ai tromboni. Tu hai mai pensato di lasciare la direzione del Foglio a un giovane? Certo, la lascio a Cerasa, adesso bisogna definire... Lasci la direzione del entriamo Foglio. Nel ventesimo anno. A Claudio Cerasa? Ma certo, entriamo nel ventesimo anno, 31 anni, no, forse ne ha 32. E quando è accadrà un po' questa? Già. Quando accadrà? Presto. Non so cosa dire. Sono cose societarie, bisogna definirle in modo rigoroso, formale, eccetera, eccetera. Però è ovvio, io non sono mica un satrapo, posso mica stare 40 anni in un giornale. E cosa farai se non fai più il direttore del Foglio? Faccio il tifoso del Foglio, continuerò, se Cerasa vorrà, a scrivere per quel giornale e farò tante altre cose. Allora, mentre Daniele Bellasio era tutto sentimentale, gli amici, le cose, io mi sono limitata la giovinezza a... mia, peraltro, ecco, perché... mi sono limitata a retweetare Paola, che ha solo twittato straordinario. Cerasiani della prima ora. Cerasiani, è vero. Ah, però è vero. È vero. Cioè, tu, non anche lo so. Tu, noi siamo Cerasiani della prima ora. Eravamo ma anche lì. Però Merliani, Giulia, ma cosa, come l'hai vissuta questa? Tanto la presenza scenica di Giuliano lì con questa barba, no? Un guru. Un uomo della montagna, anche la se saggezza. Devo dire, dopo c'era Lilian Thuor, anche un figo pazzesco. Ecco, mamma mia, beh. Ci richiami sempre all'ordine. Sì. Paola, allora, come si vive questo momento storico? Questo, la rottamazione. Delle robe societarie non so niente. Rottamazione non è una rottamazione. Non è? No. No, perché non rottamiamo Giuliano, perché non è rottamabile, no, Giuliano. Non sarebbe facile. E continuerà a scrivere sul foglio, forse scriverà anche di più adesso che non deve più anche fare il direttore. E poi sul futuro del foglio vedremo. Per il momento c'è una campagna su Twitter meravigliosa, abbonati al foglio, hashtag abbonati al foglio, che sta andando benissimo. Abbiamo avuto un sacco di abbonamenti. Ma fai così proprio pubblicità alla grande. Ma certo. Ma senti, ma è vero sto fatto che ha scelto al posto dell'elefantino la ciliegia? Sempre non per si sa. E sono tutte speculazioni. No, sono notizie sensibili, perché c'è Rasa, sì, pare che sia. Mi piace la ciliegia e poi vorrei. Sì, povera Paola. E poi vorrei citare l'intervista a Claudio Cerasa ieri sul Corriere della Sera. Mi piace molto come ha definito Renzi Berlusconi la coppia più bella del mondo. Noi siamo innamorati della grande limonata tra i due. Viva le limonate, viva le limonate. Ma torniamo agli esteri, torniamo. Leviamo d'impaccio, tanto abbiamo capito che il foglio è lì. Eccoci. E lì è combatte. Quindi noi andiamo a parlare invece di un evento televisivo che a me è piaciuto molto, perché questa settimana abbiamo parlato, rimaniamo su rottamazione d'intorno e rimaniamo anche sullo stesso canale, perché sullo stesso canale Giovanni Floris ha avuto una buona idea e ha messo a confronto sull'Europa e dintorni, sul passato, il presente, il futuro di questo continente, di questa unione politica, Massimo D'Alema e Marine Le Pen, che se le sono anche date di santa ragione. Adesso vediamo come. Mi sento vicina a coloro che difendono il governo del popolo, dal popolo e per il popolo, e non il governo della Commissione Europea per le grandi istituzioni finanziarie attraverso una pseudo-democrazia parlamentare europea. Oggi, di fronte alla Cina, all'India, al Brasile, se noi vogliamo un posto a tavola dove si decide, solo un'Europa unita può averlo. Il ritorno ai nazionalismi è ridicolo. È ridicolo. Le ha dato del comunismo. Amen. Altrimenti. Ha dato del comunismo. Sì, sì, io sogno. Ma è vero, questo è un sermone. Non è una riflessione politica, signor D'Alema. D'Alema, è un sermone. Ah, che meraviglia che è stato. Io ero lì davanti alla TV che mi godevo assai questo di martedì. Daniele. Sì, che meraviglia televisiva. Che meraviglia televisiva. Paola, che ne dici? Che cos'è? È stato uno scontro anche un po' simbolico tra due visioni dell'Europa, anche un po' tra due generazioni di politici, tra due schieramenti molto contrapposti. Che ne dici? Sì, è stato molto bello, un'idea bellissima ha avuto Floris, e non solo D'Alema, ma poi anche dopo c'è stata la ministra Pinotti, cioè è stato un bel confronto. La Le Pen è stata molto brava. Ecco, secondo te perché è brava? Perché è molto chiara nelle cose che dice, non perde tempo, è stata una che comunque incarna un grande cambiamento, perché lei il Front Nazionale l'ha cambiato sul serio, anche da una posizione non molto favorevole, perché ha una base cattolica il Front Nazionale, lei è divorziata, quindi ha dovuto anche superare questo ostacolo culturale che c'era nei suoi confronti, ed è stata brava perché comunque l'ha trasformato veramente. E poi è una che parla chiaro, diretto, senza nessuna sbavatura, e quindi funziona, ovviamente funziona. Poi quello che dice ne parliamo un'altra volta. Ma è una forma di populismo che si sta istituzionalizzando, oppure la paura che serpeggia in tutta Europa, a tuo modo di vedere, è giustificata? No, secondo me non è giustificata, però loro si stanno muovendo molto bene, anche l'UKIP in Inghilterra è fortissimo per questo, perché loro si stanno muovendo bene, stanno raccogliendo comunque quella Ha fatto anche un elogio di Siriza, di esatto. Tsipras, la Le Pen, ha detto spero che vinca domani alle elezioni. La sua idea è comunque può essere un aiuto per cambiare di rottura all'interno dell'Europa, per cambiare i meccanismi che esistono adesso e che secondo lei non sono giusti. Poi appunto lei è per uscire dall'euro, per un sacco di altre cose, però è un fenomeno. E l'altra sera in televisione è stata, a parte la giacchetta che era proprio brutta, no, è stata, esatto. Com'era la giacchetta? Un cappotto. Sì, una roba un po' montanara, un po'. Sì. Come si chiamano le cose sulle spalle, sì, con i bottoni? Non mi è piaciuta. Inguardabile, ma bocciata da Lema invece. Lui può andare come vuole. Ma com'è che piace così tanto alle donne da Lema? Bell'uomo, ma a proposito di begli uomini. Sì. Ma anche Tsipras però si difende. Allora il più bello resta Pedro. Non puoi essere un leader di sinistra. Ah no, Pedro. Pedro, vabbè, Pedro. Però lui deve ancora affermarsi, sì, deve ancora conoscerlo. Non lo conosciamo abbastanza, purtroppo. Ma invece con Tsipras andate sempre a cena, non lo no, so. Vabbè, però sentiamo cosa è successo. Cosa è successo, cos'è successo in sappiamo. Grecia? Cantiamo. Ecco qua. La ciao in Grecia. Abbiamo qualche istante per commentarla. Se vuoi fare un pronostico, la percentuale esatta di Tsipras domani? No, non lo facciamo. No, non si fa nessun pronostico. Però è molto pericoloso una vittoria. Facciamo così: meglio una vittoria tranquilla o meglio un'affermazione netta dal punto di vista della stabilità? Decideranno i greci che cosa vogliono. Però, come analista, noi ci prendiamo. Io spero che questa volta l'Europa accetti il risultato, perché già un'altra volta li ha fatti rivotare i greci, perché non gli era piaciuto come avevano detto votato. Così un po' forte, però va però bene. Vediamo. Il referendum non gliel'hanno fatto fare, peraltro. Esatto. Per cui niente, vediamo domani. Secondo me poi riusciremo a fare i conti anche se vince Tsipras. Beh, ci richiami all'ordine, cioè, perché no, c'è vi richiamo all'ordine traffico. Perché c'è il traffico. Però salutiamo a questo punto Paola. Commenteremo il risultato delle elezioni greche. Richiameremo Paola. Sì, grazie. Paola, grazie mille. Paola grazie Peduzzi, voi. Lei scrive solo redazioni estere. Questa il trasmissione foglio, comunque è cerasiana della prima ora. No? Cerasiana della prima proprio ora. Però adesso c'è il traffico. C'è bene. Il traffico, ci ritroviamo tra pochissimo. Buonasera, Paola. Ciao. C'è Paolo Corleoni in regia che ride perché controlla i tastini di Daniele Lo so, Bellati. Oh, con il problema col non è una roba di daltonismo, tra verde e rosso. No, è una cosa, secondo me, è una forma di tic. Sì, cioè mi parte la mano e apro il microfono e così. Apro, sì, esatto. Allora, come passa il tempo quando ci si diverte. Stanca perché la terza ora stanca. Però mi diverto. Però mi sono divertita tanto con Paola Peduzzi. Però sì, adesso dai, parliamo un po' di televisione. Parliamo allora di televisione. Questa è stata la settimana dei grandi successi televisivi e anche dei meno. Dei grandi Filomeno. Di chi vuoi parlare? Sentiamo. Fai la carra. Ah, forte. Io ieri sera stavo rientrando a casa un po' tardi, perché l'ho detto prima, nel sabato del viaggio, ieri sera sono stata dietro le quinte, il piccolo teatro, di una cosa bella, no? Che di cui parleremo la prossima settimana, il sabato del villaggio. E prima ancora di accendere la TV, io ho aperto Twitter e tutti che twittavano su forte. Vabbè, allora va benissimo la trasmissione. No, perché c'è la famosa legge. Tutti la twittano, nessuno la guarda. Del maestro Freccero. Bravo. Cosa è successo ieri sera in particolare? Proprio nessuno, comunque, dai. No, vabbè, ha fatto il 13 qualcosa, però insomma non è tanto, perché poi è stato battuto da Canale 5, quindi non è proprio, doveva essere il grande evento. Ieri sera a un certo punto i social network sono impazziti. Perché alla fine c'è stata una sorta di rito per l'eliminazione. È partita una canzone che è stata credo sia stato il momento negli ultimi mesi in cui la TV è stata più presa in giro di tutti. Allora io mi scuso già con Raffaella Carrà e con Sergio Iapino, perché il momento era di una comicità involontaria oltre ogni limite. Io sono preoccupatissimo. Senti com'era la canzoncina delle eliminazioni, eccola qua. Cioè, nel frattempo cosa succedeva? Perché ti confesso che io stavo con il 76 o no, il restante per cento. Ecco, praticamente, allora lei passava. Lei chi? La Carrà. Raffa Nazionale. C'erano tutti noi concorrenti. Lei passava tra i concorrenti e quelli eliminati li toccava sulla spalla. Praticamente il bacio della morte. No, una cosa triste. No, una roba con questa musica da... da funerale. Ma magari era volontaria questa cosa così goliardica. Guarda, ti assicuro una comicità, delle cose su Twitter che io avevo le lacrime agli occhi. Mi spiace Raffaella, io poi lo sai che sono una fan di Raffaella. No, hai sempre... Vabbè, ma può succedere, non è che sempre uno fa un capolavoro. Vabbè. Secondo te perché succede? Perché succede? Ingredienti miscelati male, non lo so. Sì, secondo me, guarda, cercavano lo showman o la showgirl, ma è una roba un po' anacronistica. Però siamo pronti. La morte per varietà? No, la morte perlomeno della showgirl e forse anche dello showman. Sì, ma, se ti sente Carlo Conti, comunque. No, vabbè. Team Carlo Conti, Team Carlo Conti. Ma siamo qua. Sì, ho in Carlo mano la Conti della prima ora. Ecco, l'isola dei famosi. Arriva l'isola dei famosi. Io mi sono posto la domanda se è meglio il cast dell'isola dei famosi o di Sanremo. Guarda, le canzoni di Sanremo le ho viste. Il cast dell'isola dei famosi è tutto da scoprire. Dici scoprire, già mi preoccupi. Perché saranno tutti doppi sensi, Rocco perché di qua, Rocco di là, perché c'è Rocco Siffredi. Però i concorrenti hanno detto subito che sarà una edizione casta spirituale. Senti, allora già non la guardiamo. L'isola dei famosi diventa spirituale, cos'è? Guarda, un ritiro spirituale. Vorrei farti sentire cosa hanno detto Andrea Montovoli, che è uno dei concorrenti, e Katrin Spack, come si sono presentati. Sentiamo. Perché andranno all'isola dei famosi. Ho cercato di partecipare all'Isola dei Famosi perché è un anno particolare questo e sono in una fase spirituale, diciamo, di cambiamento. Dai 29 passerò ai 30. E poi c'è anche la parte spirituale, perché non vedo l'isola come una gara di destrezza o di muscoli, ma piuttosto come un'esperienza mentale, quasi spirituale, direi. Capito? Sì, spirituale. Spirituale, meno male che ci saranno Rocco Siffredi e soprattutto la figlia di Canichia, la figlia di Claudio Paul Canichia, che è lì che si... Perché invece da loro ti aspetti... No, ma è diventata una trasmissione vietata ai minori. Ma io... Ma il doppio senso però sta nell'orecchio di chi ascolta, Ma se con la radio non si vedono. Ma secondo te funzionerà l'Isola dei Famosi? Ma perché guarda, ritorna dopo un po' di anni, è una scommessona, anche perché è la prima edizione. Secondo me 5. Sì. Sai cosa c'è? La cosa interessante è che è la prima isola dell'era della social TV, perché non c'era prima con la social, non era così forte la social TV. Ah, quindi si possono creare le squadre, gli hashtag, le cose legate all'Isola dei Famosi. Eh sì, non era mai successo. Io ho incontrato... Ma chi è che conduce? Non mi ricordo. Come no? Dai, dillo che ti piace tanto. L'ho incontrata l'altro giorno. Alessiona! Pinella. Scusami, ma la Pinella... Ma che bella. Ma che bella, vero? Ma che gas pazzesco. Ti ho detto, parliamo per questo. Ecco, allora l'ho incontrata e l'ho chiesto appunto. Purtroppo Alessia, eri da sola. Bella Alessia. Ho detto, Alessia, ma cosa pensi di questa isola, la prima isola dell'era social? Io sono una donna molto social, perché io sono molto attiva sui vari social network. Se tu pensi che Facebook 1,5 milioni, Twitter adesso ho raggiunto 1 milione di follower, quindi ringrazio tutti. Ho la Pinella, che è il mio blog, Instagram, che ho quasi 1 milione di follower. Insomma, diciamo che fa parte proprio della mia vita il fatto di poter interagire con i miei fans che mi seguono sui social network, perché è l'unico modo che abbiamo adesso per poter interfacciarsi con le persone che ci seguono, e a volte può essere anche un modo per rispondere a delle cose che magari dicono dei giornalisti che non sono vere. E adesso noi abbiamo la possibilità di dire la nostra, perché prima magari succedeva, no, che vedevamo dei titoli o delle cose completamente folli, che diciamo questa cosa non è mai successa, e almeno no, uno da solo si può difendere. Ma anche noi ci rimaniamo male quando il titolo non è quello che hanno scritto. Lo so, perché i titolisti fanno, so tutto. Alessia, però tu hai poi la Pinella, questo blog, sei un punto di riferimento. Sei un punto di riferimento, però coi social e coi blog arrivano anche gli insulti. Sì, tu come sei corazzata? Guarda, io penso che a volte ci siano delle critiche costruttive, a volte le critiche che arrivano sui social sono un po' maleducate e oltrepassano il limite. A quel punto io non rispondo, perché so che è quello che vogliono loro, e quindi io proprio me ne frego, si può dire, vado avanti. E perché se tu ti metti a innescare una polemica con quella persona che lo sta facendo apposta, perché vuole avere una risposta, perché è solo per quello, perché sennò c'è il modo per dire quella cosa che volevi dire senza insultare, però, no? Quando magari ti scrivono, ah, i tuoi figli ti ripudieranno perché hai fatto due figli con due padri diversi, allora lì, no, perché succede anche questo, allora cosa fai? Rispondi, ma che devi rispondere? No. Ma lo fai, lo fanno perché vogliono attirare la tua attenzione, insomma devi essere un po' intelligente per sapere quello che devi fare. Devo chiederti una cosa sul genere, perché il reality, qualcuno diceva è vivo, è morto, è da rinnovare, si sta rinnovando, tu cosa pensi del genere? Ma guarda, io non penso che sia il genere, io penso che ci voglia una televisione in TV che sia moderna e interattiva, e nel nostro caso lo è moltissimo, quindi non è che penso a un genere ben preciso, penso che l'Isola dei Famosi sia un format che mancava, cioè io è un po' di tempo che non va in onda e mi dispiaceva, perché io facevo proprio i gruppi di ascolto a casa per vederlo, perché è una cosa molto curiosa, cioè vedere dei personaggi più o meno noti che stanno lì, che se la devono cavare, che non hanno nulla e che li vedi anche in dei momenti di disagio e quindi vedi la loro vera natura, è un po' accattivante per chiunque, c'è quella forma di voyeurismo che secondo me intriga un po' tutti, quindi che cosa vuol dire vecchio o nuovo? È quando un format è di successo, punto e basta per me. Eccola qua, Alessia Marcuzzi, vabbè, insomma, mi ha fatto molto piacere. È brava, sì, Alessia. A parte sempre dalla colpa ai giornalisti, poverini. No, vabbè, però ho capito anche lei. Brava. Poi parla velocissima, ha detto un sacco di cose. Sì, lei ha fatto dire un sacco di cose. Daniele, è finito. Allora, sono triste. Lunedì podcast. Cancelletto noi... Radio Tube, sì, il sabato del villaggio alle 15. Un giorno arrivo alle 15, fa tutto lo scherzo. Dai, scherzi a parte. Dai, rimani tutto. Dai, una volta rimani 3 ore. Dai, per favore. È finita, dobbiamo ringraziare Paolo Corleone, sì, in regia, ringraziamo anche Cristian Goldoni che c'è stato accanto il per mitico. La redazione, e ci ritroviamo sabato prossimo sempre alla stessa ora. Ciao.